Mix 24 estate di Giovanni Minoli. Bentornati su Mix 24 estate, stiamo raccontando gli anni 60 con Franco Schipani e Alessandra Fiori. Oggi ci occupiamo del 1966, naturalmente musica e storia. Allora Franco, come iniziamo per raccontare quest'anno? 1966, il mondo sta cambiando, la società ha nuovi interessi e segue nuove mode, anche musicali, ma Frank si rifiuta di farsene una ragione, e ha ragione. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Buongiorno Franco Schipani. Come ti ho svegliato questa mattina, Alessandra? Non Fiori? Male, Strangers in the Night, Franco. Senti un po', ma questo è il disco più venduto di questo 1966. Ma che altro succede? Che succede? Come diceva Frank Sinatra, che era un crooner, a noi ci ha rovinato il rock and roll, perché lui e i suoi amici facevano questo tipo di musica. Invece che cosa arriva? Arrivano minigonne, hot pants, ragazzi con i capelli lunghi, che non sono più un'eccezione, ma sono diventati la regola. Nel mondo della musica italiana la rivoluzione inizia con un rockettaro di grandissimo successo che, guarda caso, Alessandra nel 1966 scrive due canzoni a sfondo ecologico. Prendo il giornale e leggo che di giusti al mondo non ce n'è. Come mai il mondo è così brutto? Sì, siamo stati noi a rovinare questo capolavoro sospeso nel cielo, nel cielo, nel cielo. Ai, ai, ai. Questo ragazzo della via Gru si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando, amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città, la troverai le cose che non hai avuto qui. Il nostro rockettaro per eccellenza Adriano Celentano con Il mondo in mi settima e ovviamente Il ragazzo della via Gluck. Ovviamente, ma quindi Franco, è l'anno delle proteste, quelle serie. Si inizia a protestare e non ci si fermerà più. Ma intanto il pubblico apprezza queste nuove canzoni anche con questi nuovi temi allo sfondo ecologico, mi dicevi? Assolutamente, perché Il ragazzo della via Gluck e Il mondo in mi settima quell'anno vendono veramente tanto. Vendono talmente tanto che questi due brani hanno rivoluzionato anche il mercato in qualche modo. Rivoluzione nel mercato come? Perché gli americani sono figli di Elvis Presley, loro fanno una canzone di 2 minuti e 45 secondi perché sennò le radio non le trasmettono. Noi che siamo europei, in qualche modo siamo figli della musica classica, quindi abbiamo bisogno di esprimerci, di parlare, di farci sentire. Quindi le durate di questi brani superano i 3 minuti, quindi con grande panico di chi trasmetteva. Terribile. Però lo mandavano in onda comunque perché erano comunque grandi brani di grandissimo successo, Alessandra. Quindi canzoni che propongono temi nuovi, più tempo per esprimersi all'artista, e intanto Celentano è diventato l'artista di tendenza per eccellenza. Certo, Alessandra, tanto è vero che nel 1966 sono stati pubblicati tantissimi altri brani a sfondo ecologico o comunque di protesta. Canzoni che sono state apprezzate non soltanto da quella generazione del 1966, ma anche dalle generazioni future. Saranno confini a foreste di abeti, ma in mano d'uomo le toccherà, e solo il silenzio come un sudario si stenderà, ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, girava il mondo, veniva dagli Stati Uniti d'America. Non era bello ma accanto a sé aveva mille donne e se cantava Help e Ticket to Ride, Oh Lady Jane, Yesterday. Noi non ci saremo, i Nomadi. E c'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, Gianni Morandi, un inno pacifista cantato poi anche dalla grandissima star internazionale del folk che si chiamava Joan Baez. Cantava viva la libertà, ma ricevetti una lettera, ma sua chitarra mi regalò un richiamato in America. Stop coi Rolling Stones, stop coi Beatles, stop. Mi ha detto vai nel Vietnam e spara ai Vietcong. Ecco, e il primo gennaio del 1966 Paolo VI ci riprova e invia un messaggio ai capi di Stato del Vietnam del Nord, del Sud, dell'Unione Sovietica, della Cina e degli Stati Uniti perché cerchino, si impegnino per una soluzione di pace in Vietnam. Ma il messaggio resta sostanzialmente inascoltato. How many men who listen to me tonight have served their nation in other wars? È la voce del presidente americano Lyndon Johnson, mentre 400.000 soldati americani sono in Vietnam a combattere. Quella del Vietnam è una delle guerre più raccontate dalla cultura pop dell'epoca, con libri, canzoni, film, fotografie. E con la TV a colore il sangue entra nelle case e questo aumenta la coscienza del popolo americano contro la guerra. Nel mondo inizia a circolare una certa sensibilità, Franco, ai temi ambientali, nelle canzoni, lo abbiamo detto. Ci sono arrivati anche loro? Esatto. E come la musica ha già anticipato, in Italia nasce il WWF con il suo simbolo del panda. Ma tornando a Gianni Morandi, nel 1966, insomma, che fa? Abbandona il commerciale e si butta anche lui a testa bassa o a testa alta nella canzone di protesta? Assolutamente no, Alessandra. Troppo presto e troppo rischioso. Guarda che Celentano nel 1966 torna a Sanremo proprio con il ragazzo delle Vagluc e viene eliminato, dico eliminato, dalla serata finale. Poi vende tanti dischi. Morandi no. Il suo pubblico se lo tiene ben stretto. La fisarmonica stasera suona per te, per ricordarti un amore, uno di tanti anni fa. La fisarmonica notte di Ferragosto, calda la spiaggia, caldo il mare. La fisarmonica, Gianni Morandi, e notte di Ferragosto, sempre Gianni Morandi, cara Alessandra Fiori. Cara Franco, lo sai che iniziavo a preoccuparmi? Perché? Perché, perché tutto questo spostamento verso i temi ecologici, le proteste, in realtà ancora moltissimi apprezzano la musica melodica, il romanticismo. Quindi Franco, arrivo a chiederti, chi ha vinto Sanremo quest'anno? Guarda, se Frank Sinatra era conosciutissimo, ovviamente anche in Italia, Domenico Modugno era conosciutissimo anche in America e quell'anno si aggiudica il festival. Dio, come ti amo, non è possibile avere fra le braccia tanto la felicità, baciare le tue labbra che odorano di vento, noi due innamorati come nessun al mondo. Mix 24 estate. Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare. Sembrano... Dio, come ti amo. Nel 1966 ci ho messo 6 anni a farmi amare da te. Solo 6 anni? Perché 6 anni? Ma Dio, come ti amo, mi sembra così, in pubblico. Così, così Franco, è Domenico. Sono molto carina perché è Domenico Modugno e bentornati su Mix 24 Estate in questo 1966 con Franco Schipani. Io sono Alessandra Fiori e adesso vi stiamo raccontando appunto la musica e la storia di questo 66. Franco, Domenico Modugno, ma quanti ne ha vinti di festival? Ne ha 24 a pari merito con Claudio Villa. Senti, quindi per farti contento mi vuoi raccontare che a Sanremo non ci sono sostanziali novità e si continua con il melodico? No. Devo dirti che quell'anno, proprio nel 1966, qualche vento di rinnovamento è arrivato anche a Sanremo. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. La verità ti fa male, lo so. Lo so che ho sbagliato una volta e non sbaglio più. La verità ti fa male, lo so. Dovresti pensare a me e stare più attento a te. C'è già tanta gente che ce l'ha su con me. Chi lo sa perché? Nessuno mi può giudicare, Caterina Caselli è un gruppo che amo quasi quanto i Rolling Stones. Un giorno tu mi cercherai, l'Equipe 84, Alessandra. Così tanto li ami? Sì, mi sono molto simpatici quelli dell'Equipe 84, molto. Molto, molto simpatici. Come mi è simpatica molto anche Caterina Caselli, che arriva seconda al Festival di Sanremo, però nel 1966 sfonda nelle classifiche italiane con altri successi cantati da lei. Perdono, perdono, perdono, io non so più ancora di te. Perdono, perdono, perdono, il male l'ho fatto più a me. Un abbraccio, 100 abbracci, qualche carezza avrò da te. I miei occhi, la mia bocca e il mio cuore avrai da me, perché per te questa vita è un giro tondo che abbraccia tutto il mondo. Un uomo d'oro tutto per me cercherò, cercherò. Un uomo d'oro tutto per me troverò, troverò. Che di giorno mi tenga vicino a lui e la notte rimanga sempre con me e non mi lasci sola. Perdono, 100 giorni e l'uomo d'oro, Caterina Caselli, che proprio quest'anno ha festeggiato 70 anni. Non si dovrebbe dire perché è una signora, ma se li porta stra benissimo. Comunque il 1966 è il suo anno. Assolutamente sì, Alessandra. Giovanissima, lontana dalla nota imprenditrice e talent scout che è diventata oggi. Ma infatti lei ha avuto proprio l'intelligenza di dire: ok, sono al top, quindi me ne vado. Cioè, non è che se n'è andata in fase andarsene calante. Andarsene al top è sempre una scelta vincente, brava. Comunque, siccome lei era un artista, una grande artista, e capisce bene la mentalità degli artisti, non gli è stato difficile poi diventare una imprenditrice, una talent scout di grande successo. Guarda, Andrea Bocelli ed Elisa, insomma, Alessandra. Solo qualche successo internazionale l'ho fatto, sì. E sempre in questo 1966 i giovani sono i protagonisti a Milano di una vicenda che fa scandalo. 3 studenti del liceo Parini vengono rinviati a giudizio per aver pubblicato un'inchiesta sui costumi sessuali degli studenti. Il giornalino su cui viene pubblicata è la Zanzara, giornale sul quale scrissero negli anni giovani redattori che poi sono diventati delle firme molto importanti. Tra queste c'è anche Walter Tobagi. L'interrogativo è: quale futuro aspetta l'informazione libera in Italia c'è ancora un futuro per questo tipo di informazione. Il giornalista che crede nella verità è anche un giornalista che crede nella funzione della, della verità come strumento che crea libertà. Nel 1980 Walter Tobagi sarà ucciso dai brigatisti, ma aveva iniziato a fare giornalismo proprio sul quotidiano trasgressivo del liceo Parini, anche se definirlo trasgressivo oggi forse insomma oggi sarebbe un po' eccessivo, un po' troppo. Oggi sarebbe un giornalino molto educato. Comunque, a proposito di temi di costume, nella società italiana si inizia a parlare di divorzio, aborto e sessualità, soprattutto grazie alla voce che più di ogni altra ebbe il coraggio di affrontare questi temi. Il divorzio, l'aborto, l'obiezione di coscienza, la felicità, una sessualità nuova, tutti questi temi, l'omosessualità, l'eterosessualità, l'eiaculazione precoce, tutte queste cose le quali, se vuoi, possiamo e dobbiamo parlare, se vogliamo poi impedire che i genitori guardino crescere i loro figli col timore che la ragazza diventi puttana o con il ragazzo omosessuale o cose di questo genere, invece di vivere assieme in un clima d'amore e riuscire a fare della società qualcosa che rende più felici perché più liberi, più responsabili perché più puliti, più capaci di amare e meno di pagare. Era Marco Pannella che, tra le altre cose, 3 anni più tardi fonderà la Lega per l'istituzione del divorzio. Intanto gli studenti iniziano a protestare e nel 1966 occupano la facoltà di sociologia a Trento, ed è un passo molto importante nella storia del movimento studentesco italiano, che esploderà però un po' più avanti. Il 1966 viene ricordato dagli italiani, e non solo dagli italiani, per una tragedia che colpì in particolare la città di Firenze. Io esco attraverso la strada, ma faccio sul Mugnone, su questo torrente, e vedo che era salito enormemente. C'era una donna che si sbracciava, aiutate, c'ho i bambini. Quando l'acqua smise di fare quel rumore spaventoso, diventò una calma e un silenzio impressionante. Un silenzio assoluto, è calato sulla città un silenzio di morte. Il 4 novembre del 1966 l'Arno starà a ripa. 80 milioni di metri cubi di acqua e fango travolgono Firenze. Molti studenti, rinominati gli angeli del fango, raggiungono la città come volontari. Giovani provenienti da tutta Italia iniziano in quell'occasione a scambiarsi idee e a fare rete con ragazzi venuti da tutto il mondo per contribuire a salvare dal fango opere d'arte e antichi manoscritti. E fu un momento molto importante di conoscenza e di crescita di quella generazione di giovani italiani. Franco, che vuoi dire? No, hai ragione, Santa, perché mi ricordo che mio padre partì per Firenze per occuparsi delle comunicazioni, sì. E mi ricordo che ci scriveva delle lettere incredibili. Ecco, e uno di questi studenti scrive: ho 15 anni e sono scappato da casa per venire a lavorare a Firenze. Non ero mai stato a Firenze. Adesso ci sono da 4 giorni e non mi deve cullare nessuno. Thank you. 24 estate. Bentornati su Mix 24 estate, musica e storia. Siamo nel 1966, io sono Alessandra Fiori, qui con me c'è Franco Schipani. Ciao a tutti. Ciao a tutti, senti che ciao. Mi piace. È molto bello questo Mi piace ciao. Dire ciao. Allora, Franco, 1966, che altro succede nella musica italiana? Ti voglio far sentire un gruppo veramente particolare. Io penso che l'amore sia la più bella cosa che la, la, la, la, la. Io felicità, ma ciò che credo è poi verità. Vedo tutti che si danno da fare per trovare la, la, la, la, la. Una donna che col canto in gola poi li lascerà. Ma Tema e i giganti. Una ragazza questo, in due. Bello, ti piacciono questi corretti? Sono fantastici americani. Questi. Ma raccontami un po' dei giganti. Ma i giganti sono un gruppo di Milano che gravitavano così nell'orbita di questo locale che si chiamava Santa Tecla. Tu sai che cos'è il Santa Tecla più o meno? No, Franco. Sembra un dopolavoro dell'Enel, Santa Tecla. Santa Tecla. E invece no, era un covo di rocchettari. C'è un posto che è stato aperto, pensa, nel 1951. Ed era facilissimo andare lì e trovare Gabber, Tenco, Battisti, Celentano, Iannacci. Ecco, i giganti facevano parte di quel giro ed erano insomma molto molto apprezzati. Qualcuno a un certo punto decise che era l'ora per loro di registrare dei dischi di grande successo, peraltro. Una ragazza in due. Allora, una ragazza in due. Ma Alessandro, non mi dite che nel 1966 eravamo messi così male in Italia da dividerci addirittura una ragazza? Mi pare che di solito i maschietti sono di più nelle statistiche, no? Beh, si parla di 3-1 se non vado errata. Ma forse anche di più, se non erro. Io non lo so, comunque nascevano più uomini. Quello che, di cui sono certa è che gli italiani nel 66 erano 52.317.900. In quest'anno si vota e nelle amministrative la DC prende il 30,3%, il PCI prende il 27%, il Partito Socialista Unificato è intorno al 10% e l'MSI è intorno al 7%. Ma invece la musica fuori, Franco, portaci fuori a sentire un po' di musica all'estero. Che succede? Sei contento? No, sono contento. Perché di solito ti dico raccontaci del festival, invece questa volta ti dico portami all'estero. Allora ti porto all'estero, ti porto in Inghilterra, ma un po' in tutto il mondo, perché ormai sono esplosi. E a questo punto i loro successi, appunto quelli dei Beatles, erano arrivati dappertutto, anche dietro la cortina di ferro, non li potevano arginare. E quindi i Beatles come sono arrivati in Unione Sovietica? Quando da quelle parti vedevano il Festival di Sanremo lo facevano vedere tutto, perché c'erano delle canzoni melodiche, tranquille e serene, quindi diamo un po' di musica al popolo. Appena si interrompeva c'era l'artista straniero, quello con i capelli lunghi, quello con la brillantina, col tacchio a spillo, lo tagliavano, lo saccavano subito i comunisti, che diceva questa è un'immagine che i nostri ragazzi blasfema, non possono assolutamente vedere. I Beatles sono arrivati perché qualcuno che passava portava nastri, cassette, dischi, se li mettevano dappertutto, cioè sembravano gente che portava cose, sostanze illecite, hai capito? Comunque sì, sono arrivati e comunque nel 1966, dato che sono arrivati anche da noi ovviamente, hanno piazzato, beh io non lo so, un numero spropositato di 45 giri sulla nostra classifica. My bell, these are words that go together well. My Michelle, Michelle, my bell, sans des mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Ah, girl. Girl, girl. You said, oh, madam, will you read my book? It took me years to write. Will you take a look? It's based on a novel by a man named Lear. And I need a job, so I want to be a paperback writer. Paperback writer. Che anno che è stato questo per i Beatles? Pazzesco. Beh, ti guardavo mentre ascoltavi, dice, eccolo un altro, eccolo un altro. Michelle, Yellow Submarine, Girl, Paperback Writer, Day Tripper e We Can Work It Out, i Beatles. E poi quest'ultima, quel brano, questo, ecco. Life is very short. Life is very short. È veramente corta. Ma, e quindi... Lo sai che i Beatles e i Rolling Stones sempre hanno detto si odiano perché loro sì. Non era assolutamente vero. Si amavano alla follia in realtà. Guarda, ti devo dire una cosa, che quando i Beatles hanno fatto il loro provino sono andati alla Decca, una casa discografica, però era un giorno no, sono andati malissimo. Questi della Decca hanno detto, perché magari si sono svegliati tardi, c'erano un po' di raucete, c'erano ragazzi, le esercitatevi. Cose, dice, guarda, non è il caso, loro sono andati alla EMI e hanno veramente fatto quello che hanno fatto. Ecco, quando i Rolling Stones cercavano un contratto discografico, George Harrison ha chiamato la Decca, una volta che erano diventati famosi, lo dice, buon pomeriggio signor Harrison, si ricorda di noi? Sì, ovviamente, mi ricordo che hanno licenziato tanta gente qui quel giorno, dopo che voi avete firmato il contratto con la EMI. Dica, allora vi do un consiglio, c'è un gruppo di amici nostri, si chiamano i Rolling Stones, mai sentiti? Fidatevi di me, è un gruppo che farà strada e storia, li volete ascoltare volentieri, ecco, perché se no sicuramente licenziano delle altre persone. Quindi la telefono un quindi po' li hanno ascoltati con un po' ascoltati. Di attenzione. Guarda, avevano dei dubbi, dice, però nel dubbio noi intanto li firmiamo. Anche il nome, queste pietre rotolanti, sì, ma che è? Ce l'ha detto, però l'hanno detto gli Scarafaggi, quindi Scarafaggi, in fondo ce li prendiamo. Gli Scarafaggi, prendiamo anche non loro. Si sa mai, sì. Comunque, questo episodio di grandissima rivincita, se permetti, mi fa citare questo film. Posso aiutarla? No, grazie. Salve. Salve. Si ricorda di me? No, mi scusi. Io sono stata qui ieri, mi ha detto di andarmene. Oh, lavora a percentuale? Sì. Bello sbaglio. Bello. Enorme. Ho altro shopping da fare. Franco, è Julia Roberts in Pretty Woman che dopo aver comprato centinaia di migliaia di dollari di vestiti torna nel primo negozio in cui era stata umiliata e dice... Avete commesso forse uno sbaglio? Vi pagavo una percentuale, vero? Che errore! Che errore. E prosegue. Le rivincite, Franco, quanto sono belle le rivincite. Beh, ma anche i Rolling Stones sono presi una grandissima rivincita su quelli che li avevano scartati all'inizio, perché nel 1966... Senti un po' i Rolling Stones che cosa hanno fatto. Let's go. Painted Black, 19° attacco di nervi. Have you ever seen your mother baby standing in the shadows? The Rolling Stones, cara Alessandra. Caro Franco, pensavo non ce la facessi a dirlo il titolo. Sì, è un po' ce l'hai fatta. Maria. Hai visto, ci ho messo meno tempo di Beatles. Se loro erano 6 dischi in classifica nel 1966. Comunque, tu ti sei tolta la soddisfazione di farmi sentire Julia Roberts prima, adesso mi tolgo la soddisfazione di farti sentire un'altra cosa che non c'entra niente col 66, però è carina, senti. Il sole sta per tramontare, dei bimbi corona gioca. Pensi che sorridono ed io son qui con le mie lacrime. I Rolling Stones cantano italiano e Franco Schipani piange e si commuove. No, io mi commuovo perché penso alla ragazza che ha cantato per la prima volta questa canzone, della quale ero perdutamente innamorato, ma era fidanzata con Mick Jagger, quindi non avevo nessuna speranza. Marianne Faithfull. Eri pazzo di lei? Pazzo di lei, infatti i Rolling Stones, che non volevano cantare questa canzone, l'hanno scritta per Marianne Faithfull, che era la fidanzata all'epoca di Mick Jagger, e con la quale, cioè, questa canzone poi lei ha sfondato e ha fatto una bella carriera. Ciò le ha portato fortuna, volevi dire questo, Franco? Sì, volevo dire questo, grazie. Prego. Ma intanto il rock italiano come sta messo? Guarda, il rock italiano sta messo veramente, ma veramente bene. Vuoi sentire qualcosa? Ma fammi sentire. Avevamo 5 anni, correvamo sui cavalli, io e lei contro gli indiani, eravamo due cowboy, bam bam, di colpo lei, bam bam, lei si voltò, bam bam, colpo lei, bam bam, a terra mi gettò. Apro gli occhi, ti penso ed ho in mente te, ed ho in mente te. Io cammino per le strade ma ho in mente te, ed ho in mente. Ogni mattina, oh oh, ed ogni sera, oh oh, ed ogni notte te. A papà non lo saprà mai, e mamma non saprà mai, nessuno al mondo saprà che tu, tu sei qui con me. Ti prego stai, solo l'ultimo momento. Bang bang, io ho in mente te, resta l'Equipe 84, tutte canzoni prese in leasing dal repertorio straniero, mia cara Alessandra Fiori. Ma infatti, scusa, ma bang bang non è quella bang bang? Sì, sì, mi fa cantare. Sempre quella. Sì, è quella qua. Ti vedo preparare. Hai visto? Ti piano piano. Piano piano. C'è un'evoluzione. Spotify. Spotify. Ok. Con una T. Studio, mi applico, bravo, imparo. Bravo, bravo. Ma intanto ti faccio anche sentire quest'altra, Franco. Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi. Franco, che mi dici sentendo questa? Ti dico che io, quando sono arrivato in America nel 1979, mi sono trasferito lì. Nel 79, siamo nel 66. Sì, ma. Allora fammi dire solo che il 6 settembre del 66, che tra l'altro è il giorno del mio compleanno, detto giorno, non giorno, anno, viene trasmesso negli Stati Uniti il primo episodio di Star Trek, che poi diventa una delle serie televisive più famose e popolari della storia della televisione mondiale. Nascerà 5 serie, cartoni animati, film, e tu immagino che abbia visti tutti, perché nel 79 quanti ne avevi viste? No, allora, nel 79 non c'era né Netflix, non c'erano i DVD, non c'era, dovevi andare a prendere le cassette, cioè, però le televisioni, quelle locali americane, quindi non i grossi network, le mandavano in syndication, cioè le avevano riprese e riprogrammate tutte. Io ho avuto la malaugurata idea di vedere la prima, e lì sono rimasto, perché quando sono finite le serie io mi sono dovuto disintossicare. No, ma ti capisco, a me è successo, cioè... con Homeland. Ah sì? Io con Homeland ho avuto un grandissimo problema. Ma di... serio? Ma serio, perché poi sei Oddio, lì e dici ne vedo solo un altro, giuro, solo uno con l'occhio che ti si chiude, dice l'ultimo, e poi ne vedi cinque. Quindi... e fai le 4 di notte e il giorno dopo strisci praticamente. Quindi praticamente devi cominciare a vederlo venerdì mattina durante il weekend e finire lunedì prima di andare al lavoro. Esatto, comunque... Questo 1966 è anche un anno molto importante per il cinema, perché arrivano successi intramontabili come Il dottor Zhivago, tratto dal romanzo di Boris Pasternak con Omar Sharif, che non era male Omar Sharif. Assolutamente. Diciamolo. E poi questo è l'anno di un film che diventa un grande, grandissimo, meritatissimo classico della commedia all'italiana. Vabbè, il mitico L'armata Brancaleone di Mario Monicelli con un grandissimo Vittorio Gassman e la colonna sonora di Carlo Rustichelli. Ma in questo 1966 il cinema mondiale è in lutto, perché il 15 dicembre scompare un nome che è caro a tutti quanti. È il papà di quei personaggi straordinari che fanno parte ancora oggi della nostra fantasia, Franco. Chi sarà? Sarà Walt Disney. Io me lo ricordo perché per me è stato come se mi fosse morto un parente in famiglia. È il papà di Toporino, il papà di Paperino. Sono rimasto malissimo. Certo. Malissimo. In televisione, questo 1966 è l'anno del successo di Pippo Baudo con un programma musicale rimasto nella storia, Sette Voci. Leggenda vuole che il successo di Baudo sia legato a una cosiddetta botta di fortuna, perché era il 6 febbraio, domenica, la bobina con la puntata del telefilm Rin Tin Tin, che era prevista per quella sera, non arriva, e la Rai decide allora di trasmettere un numero zero. Va in onda Sette Voci, una trasmissione che ai vertici della Rai avevano bocciato e considerato addirittura intrasmissibile, e invece è un successo clamoroso. Il programma conquista la domenica pomeriggio e la carriera di Baudo da quel momento vola. Poi passiamo, che vuoi dire con quel didino, Franco? No, aggiungi. Ero uno di quelli che era davanti alla televisione e voleva vedere Rin Tin Tin quel giorno, quindi quando ho visto Baudo ho detto oddio, che ci faccio, c'è un altro soldato sul forte, ma non mi sembra un soldato quello. No, era Baudo. Però mi ti è piaciuto? Poi ho detto va bene, non c'è l'intentino, però questa cosa mi piace. Può funzionare? Sì. Abbiamo lasciato però indietro, a malincuore, non lo so, sei contento, sei triste, però siamo rimasti un po' indietro con i nostri big musicali, Franco. E allora chiediamo ad Alessandro Cappini un mega mix. Riderà, riderà, riderà. Pensiamoci ogni sera al tramontar del sole, sarà l'appuntamento che uniti ci terrà. Io sono partito e di te mi è rimasta una sola promessa, Pensiamoci ogni sera al tramontar del sole. Una voce sta cantando, ma son pochi ad ascoltare. I gabbiani stan gridando per poterla soffocare. Altre voci. Riderà Little Tony, se telefonando. Mina, una casa in cima al mondo. Pino Donaggio, io ti darò di più. Ornella Vanoni, pensiamoci ogni sera. Jimmy Fontana e uno in più, Ricky Maiocchi. Ecco, ti sei sfogato? Sì. Direi di sì. Ma anche loro sono sfogati, perché sì, è l'unico momento in cui Alessandro Chiappini e Antonella Migliaccio vanno d'accordo in regia. Perché l'unico si muovono. Momento. No, li vedo in onda, li vedo che... Li vedi in onda. Comunque, adesso sì, che sì, ti sei sfogato, ti racconto che nel 1966 Paolo VI abolisce, dopo 4 secoli, l'indice dei libri proibiti. Ma ti rendi conto, nel 1966 esisteva ancora l'indice dei libri proibiti, Franco. Io invece rivendico il diritto di farvi ascoltare questo brano. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. The Sound of Silence, Simon & Garfunkel. Lo dovevo assolutamente fare ascoltare. Ma io ti adoro per averlo fatto. Ah, perché io questo film l'ho visto 27 volte. California Dreaming, Mamas and Papas, Barbara and the Beach Boys, la ragazza che fa no no no no di Michelle Polnareff, e With a Girl Like You, i Troggs. I Troggs, Franco. Adesso però dobbiamo salutare questo 1966. Io ti vorrei chiedere quale pezzo hai scelto, qual è il tuo preferito, ma non lo faccio. Va bene, grazie. Prego. Grazie. E ti spiego grazie. Perché. Perché? Perché? Perché? Perché? Abbiamo detto l'anno della trasgressione, la nostra Antonella Migliaccio ha scovato una chicca che adesso vi facciamo ascoltare, perché nel 2009 Vasco irrompe sul palco del concerto del 1° maggio a Roma e interpreta una canzone molto particolare. Ale Chiappini, intanto sotto, noi ci vediamo nel 1967, ciao da Alessandra Fiori, da Franco Schipani, ciao! Un ragazzo di strada. Io sono quel che sono, non faccio la vita che fai. Ai margini della città, non vivo come te, io sono poco di buono, lasciami in pace perché sono una...